che privilegio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione. Grazie ragazzi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Che ha visto dall'altra parte Cagliacon, il pallone per lo spagnolo Cagliacon, l'occasione, poi arriva il gol del vantaggio De Guzman, 1-0. Give me five. All right. Fa l'Inter, c'è spazio di qua, poi Guarin, si muove Shaqiri, va Guarin, col destro. Rossidis, Ljajic, 1-0 Roma, Ljajic, minuto 46, con il piazzato mancino, su un gran cross di Torosidis. Torosidis prova il cross in mezzo a Gervinho, 2-1, 2-1, ci pensa lui, minuto 60, la Roma torna avanti e adesso è un vantaggio pesantissimo. È una soddisfazione doppia, nel senso che venire qua in questo stadio davanti a 50.000 persone non era facile, però siamo stati bravi, siamo scesi in campo determinati con il giusto atteggiamento e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Questo era Darmian, minuto 60, Pierluigi Pardo. Sì, io devo fare un appello. Pier, dimmelo subito, io non ho dormito stanotte temendo per le tue corde vocali. No, però molta gioia. Tra l'altro oggi abbiamo Urbano Cairo, abbiamo Via Stanetti, la puntata sì. Super, ma dobbiamo assolutamente chiamare quell'ascoltatore di ieri. Quale? Il pazzo visionario, quello delle 5 su 5. Sì, è vero. Perché noi eravamo miscredenti, noi invece lui... E lui ci credeva! Lui ci credeva! E poi ho già la proposta, eh? Adesso nei prossimi giorni elaboriamo meglio. Chiamiamo Nardella e Marino e facciamo il gemellaggio dei musei, delle fontane, delle piazze. Chiediamo al comune di gemellarsi, sono anche politicamente affini, dovrebbero andare d'accordo. E facciamo, che ne so, museo della partita, musei gratis col biglietto. No, questo della perché tu non lo sai, ma ieri Pierre ha lanciato sta storia agli inglesi, vediamo quali sono, perché non ci sono grandi fontane, cose, e ha dovuto precisare a un certo punto, ha dovuto dire ragazzi, non è che sto dicendo che qui a Rotterdam non c'è molto da sfasciare, eh. Abbiamo dovuto chiarire. No, è vero. Ragazzi, 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Leggo anche questo: il nostro premier ci ha rassicurato, l'ISIS non arriverà in Italia, ci penserà lui a proteggerci. Dai, tagliagole, possiamo dormire sereni. Questo è quello che ha detto Renzi. Intanto, chi arriverà in Italia? Perché le nostre 5 sono passate, i sorteggi ci sono già stati, in Italia arriveranno lo Zenit San Pietroburgo nel ritorno contro il Torino che non ha pescato bene, l'Inter ha preso il Wolfsburg e non ha pescato bene, non ha pescato bene, per non grande palmarès, però grande classifica in Germania, sì, ma anche della qualche classe. Giocatore non banale, eh? Quattro fischi rifilati al Bayern di Monaco, correggimi se sbaglio, Giovanni Capuano. Sì, recentemente. Poi c'è Schürrle, poi c'è Perisic, che in questo momento è infortunato, Perisic. Luis Gustavo, De Bruyne, c'è Pennellone Bentner. Ah, vabbè, quello lì te lo regalo. Ragazzi, questo lo diciamo a tutte le ragazze di Milano. Non annoiate con questa negatività. Quello lì te lo regalo. C'è il Napoli tronfio, spaccone, andiamo, Pardo, c'è paura. Io ti rivelo che c'è Giorgio De Luca, un altro attore che sta facendo tutto il possibile per rendere la Dinamo di Mosca, che è il sorteggio migliore che abbiamo pescato dall'urna, qualcosa di terrificante, e non ci riesce perché Napoli Dinamo Mosca ha una favorita chiara, si gioca la prima al San Paolo e poi un inevitabile derby Fiorentina-Roma. Sarà una grande partita, riedizione dell'ultima Coppa Italia. La Fiorentina è abituata a trovare italiane sul suo cammino quando fa strada in Coppa. C'è un altro derby, che è quello spagnolo, tra Villarreal e Siviglia. C'è anche da dire che insomma, per chi passa questo turno, per chi tra le nostre cinque, saranno quattro nella migliore delle ipotesi, passerà questo turno, c'è il giollone, perché le altre partite, sinceramente, Dinamo Kiev, Everton, Dnipro, Ajax e Bruges, Besiktas rappresentano non tantissimo come pericoli. Il Bruges è una buona squadra. Bruges, lo so che non ha nome, però è in testa al campionato belga. Il Torino l'ha trovato nel girone, non è una squadra facilissima, secondo me. E il Besiktas si è allineato al Liverpool, per cui di che stiamo a parlare? Io penso, certo, che è tutto molto livellato, e penso che da questo punto di vista penso che l'Europa League sia molto più livellata della Champions. La Champions ha quelle 4-5 squadre che hanno dei valori di punta talmente enormi che sono difficilmente battibili, mentre l'Europa League è diciamo una coppa proprio di equilibrio. Quindi dico che adesso noi dobbiamo portarci dietro questa energia molto positiva, perché io non pensavo per esempio che il Torino potesse superare la Atletico Bilbao, avevo qualche dubbio anche sulla Fiorentina, ero più ottimista sulla Roma, certamente su Inter e Napoli, e portiamoci questa energia dietro, perché secondo me ce la giochiamo con tutti. Poi è ovvio che il Wolfsburg può battere l'Inter o il Zenit può battere il Torino, però insomma godiamocene, andiamo a testa alta. Ma sicuro, c'è Danilo che mi scrive che se non apro con il Toro mi toglie il saluto, ma poi avremo il presidente del Torino Urbano Cairo alle 15, quindi Danilo non togliermi il saluto, dai, mi dispiacerebbe molto. È anche vero, sì, adesso traffico, però è anche vero che siamo qui a suonare mille fanfare, poi non sappiamo bene se domenica nel nostro disgraziato campionato Genoa-Parma si giocherà. Ieri Giovanni Capuano ha chiamato Manetti, ma magari lo chiamiamo, ma sta tutti i giorni Giampiero. Lei conferma anche che è in grado di garantire, come ha detto in queste ore, che domenica il Parma giochi? Sì, mi senti di dirlo, come ho detto da domenica. Ma dovranno pagarsi i giocatori la trasferta o c'è un sistema, diciamo, tradizionale di garantire questa partita? No, è già, dovrebbe essere già a posto. Ascolti, tutti le chiedono di portare i libri in tribunale, ci aiuta a capire perché non lo fa? Cioè, da cosa le nasce la convinzione di riuscire ad avere un piano per il Parma? Abbiamo un piano preciso. Che è ancora attuabile? Certo. No, perché leggiamo tutti i giorni sui giornali fornitori, collaboratori che chiudono ogni rapporto, diciamo, questo fa parte, diciamo, tra virgolette, del gioco. Tutti convocati. L'idea per il Caduri, può mettere in mezzo il Caduri, va fino in fondo, morbido, secondo palo, arriva Darmian, è un super gol, Torino 3, Atletico Bilbao 2, il Toro ci ha messo la testa, il Toro ci ha messo il cuore, il Toro ci ha messo il coraggio. Nella notte tifosi granata che aspettavano i reduci, gli eroi del San Eroi. No, gli eroi, perché se nella storia delle coppe le italiane avevano prima volta che vincono a Bilbao. No, non solo prima volta, otto precedenti, un pareggio e sette sconfitte. Quindi, un pareggio e sette sconfitte. Diciamo che sono stati eroi. Eroi sportivamente parlando. Ragazzi, vincere fuori casa a Bilbao dopo aver pareggiato l'andata, vincere 3-2 è un'impresa eroica, anche perché Torino, diciamo, non è una squadra costruita per vincere l'Europa League, è una buonissima squadra. Secondo me sottovalutata dai propri stessi tifosi, e dimostrando di essere migliore di quello che si pensava fino a qualche settimana fa, e però insomma oggi deve godersela di brutto, perché sì, è fatto una cosa oggi convochiamo quelli che Cairo Braccino. Convochiamo volentieri quelli che Cairo Braccino, tutti qui, hashtag Cairo Braccino 800 24 0024. No, ma anche perché io credo che al Torino Ventura sia un po' come Asterix, no? Come il druido, fa la pozione magica e fa resuscitare Immobile, reduce da una stagione deludente, Cerci che a Firenze faceva più guai che calcio, e adesso arriva Maxi Lopez che non è né Cerci né Immobile, però fa grandi cose, quindi lo vedo tagliare il vischio nella foresta e preparare la pozione magica, sperando che nessuno ci cada dentro. Intanto, dopo pulmini, automobili, attrezzature per la palestra, è il turno degli spogliatoi del Tardini. Questa mattina gli ufficiali giudiziari si sono presentati allo stadio di Parma e hanno smontato tutto il mobilio dello spogliatoio della prima squadra. Stessa sorte è capitata nei giorni scorsi a quelli di Donadoni e del suo staff. In un furgone sono così finite le panchine, gli armadietti e le poltrone utilizzate da Lucarelli e compagni, che verranno messe all'incanto. Io una panchina, magari non una panchina, una poltrona, magari un'offerta la faccio, la metto in salotto, anche Pardo. Te ne regalo una, Piero. Parliamo un po' dei simpatici tifosi del Feyenoord, quando volete. Dei simpatici tifosi del Feyenoord? No, nel senso che, voglio dire, se queste cose qui fossero successe in Italia, penso che... Adesso non mi fate fare, io sto avendo una deriva. No, ma vai. Poi vai, c'è Pamela da Gorizia, per Paolo da Firenze, Stefano Genova. Ho fatto le Rams a Londra, ho fatto gli Interrail, sono europeista convinto. Mi arrabbio con noi italiani quando facciamo un sacco di errori. Però insomma, mi sembra che come si era visto all'andata, poi ci sia un po' di doppio pesismo. Intanto, quello che è successo ieri, secondo me, è di una gravità assoluta. E allora, erano molto gravi le parole di Tavecchio, ci mancherebbe, l'abbiamo detto tutta l'estate, siamo stati giustamente a dire, e non è che adesso Tavecchio quella battuta lì se la può fare perché gli olandesi sono comportati così, però mi aspetto la stessa fermezza adesso, perché quello che è successo ieri è allucinante. Poi la partita è finita così, è andata bene, senza problemi di ordine pubblico, anche merito, devo dire, che comunque di un'organizzazione che c'è, perché l'organizzazione lì c'è, forse c'è anche troppa. E il vero dibattito, secondo me, da oggi è capire se esiste a livello di polizia un punto di equilibrio, una classica via di mezzo fra noi italiani che ci facciamo sfondare le piazze e gli olandesi che caricano 83 persone così, apparentemente senza motivo, e gli fanno passare 4 ore in questura così per togliersi il dubbio, perché pure questa è una situazione dello stato di diritto bella e buona. Poi Pier, sugli 83 capiremo, perché c'è anche la versione secondo cui dentro quel pullman c'era qualcosa che non doveva esserci, però evidentemente perché c'è una disparità. Perché non lo dicono? No, beh, insomma, oggi qualcuno l'ha anche scritto dopo aver parlato con i poliziotti italiani che seguivano la Roma a Feyenoord, e scrivono dei mazze, tirapugni e cose simili. Però tu hai perfettamente ragione, il punto è quello, e tra l'altro secondo me andrebbe anche detto con una certa fermezza che gli amici del Feyenoord, se anche fanno un giro stando fermi, non è poi una cosa così sbagliata. Oggi Infantino, all'inizio della cerimonia per il sorteggio dell'Europa League, ha citato la questione di Rotterdam, pu senza parlare del Feyenoord, cioè non ha fatto nomi, però tu sai che nel linguaggio dell'UEFA quello significa che gli prudono le mani. Sì, però secondo me le mani, scusa, adesso non c'è niente contro il Feyenoord, c'è stata anche una scena bella, io l'ho anche sottolineato in diretta, che chiaramente non riscatta di tutto lo squallore che abbiamo visto. La scena alla fine con la sciarpata e l'applauso alla squadra è una cosa bella. Ma certo. E sicuramente la squadra è sostenuta da parte del pubblico, quello sano, molto bene, quindi da questo punto di vista c'è quasi da fargli complimenti per l'apporto che ha dato Spada, però poi sono arrivati 40 centini in campo. No, ma vogliamo anche dire che a un certo punto è stata una partita che ha rischiato di essere falsata, perché partita che era chiara tatticamente, aveva una sua squadra che la stava dominando, si ferma per 20 minuti, tutti i box, secondo me non è neanche un caso che pronti via l'azione dopo ti fai trovare completamente impreparato. Cioè, poi Cervinio ha messo tutto a posto, ma non è che una partita che tu sospendi per un quarto d'ora, 20 minuti, è una partita pienamente regolare. No, il calcio è fatto perché si comincia, si ferma al 45esimo, si ricomincia e poi si finisce al 90esimo. Può succedere qualcosa di diverso, questo è evidente, hai ragione. Poi tiravano gli accenditi della Skorupski, sono piovuti oggetti in campo di tutti i tipi, al di là dell'episodio squallido, proprio, cioè veramente... Quello della banana, proprio posso dirti, il sentimento prevalente è quasi la noia, nel senso che non si sono ancora rotti le palle di questa roba qui, è proprio vecchia, sorprendeteci, non mi verrebbe quasi da dire, ovviamente no, sorprendeteci. Un po' di fantasia sebbene perversa. Però veramente, la noia di una roba del genere, questo tipo di insulto, che tra l'altro insomma, è un insulto. È un insulto a chi lo tira, dai Pierluigi, è un insulto all'intelligenza nulla di chi compie un gesto di questo tipo, perché non ha intelligenza ma nemmeno fantasia, hai ragione tu. Pamela, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. La mi dica. Allora, volevo riallacciarmi a quello che aveva detto Pierluigi Pardo sui musei, che non ho capito benissimo perché stavo viaggiando, però... I musei? Il gemellaggio, esatto. Roma-Firenze. Esatto, perché era anche una mia idea balzana, che ho fondato anche un blog che si chiama Slow Football, sì. Proprio per tornare ai vecchi valori tradizionali del calcio di una volta, da degustare come succede per il movimento di Slow Food. Ci piace, degustare ci piace Pamela. Esattamente, infatti, anche perché io lavoro nel settore della cultura e sarebbe stato veramente una bella idea da portare avanti, quella di poter portare i tifosi in gita, quando vanno a vedere la propria squadra in trasferta, a fare anche un giro dei musei. Sì, ma ci sono molti tifosi che lo farebbero volentieri. Se lavorava nel settore della ristorazione, per me Pardo era meglio, ma fa niente. Io l'ho buttata lì, però ci sta. Mezz'ora fa, io ti dico, sappiamo che Fiorentina non è che proprio siano esattamente gemellati, quindi chiaramente poi ci saranno anche dinamiche di ordine pubblico, però se quello che abbiamo visto e che ci ha indignato tutti a Roma, a Firenze, a Napoli, quello che abbiamo visto a Piazza di Spagna, indigna tutti gli italiani, tutte le persone per bene, pure gli olandesi. Io ieri alla fine della telecamera, tra l'altro fatta nella tribuna centrale dello stadio con le altre televisioni, con Radio Rai e mezzo agli olandesi, in grande allegria, in grande serenità. Alla fine ho avuto una persona che mi ha chiesto scusa a me, chiaramente, perché lì è piena di gente che si è indignata per quello che ha visto. Visto che adesso abbiamo questa partita che proprio sembra quasi fatta apposta come manifesto per le nostre città d'arte, che non sono ovviamente solo Roma e Firenze, ma sono anche fortemente Roma e Firenze, insomma, se i due sindaci si parlano, se viene in mente l'idea di fare una roba eclatante che proietti questa immagine positiva dell'Italia e del mondo, ma perché no, insomma, sì. Ecco, poi mi sembra un'occasione, poi faranno come vogliono e la declineranno come gli pare, non è che c'è bisogno della partita per andare a vedere, se diamo questo messaggio, se una volta tanto non ci dividiamo secondo il campanile fra nord e sud per le rivalità calcistiche e proviamo a pensare da paese, da nazione che può proiettare in tutto il mondo, a livello europeo, a livello di web, un'immagine sana e civile, secondo me facciamo una bella figura. Potrebbe essere una buona occasione, poi sappiamo bene come ci siano certe frange che non avranno voglia di andare agli Uffizi, ma comunque vi volevo ricordare che la Fiorentina ha eliminato la squadra con il 12esimo fatturato europeo, magari due paroni in più, Gerry, le diremo. E poi quest'altro messaggio, ma perché? Ma poverini italiani, festeggiate gli ottavi della UEFA morti di fame. Ma perché? Ma perché? Pure un preliminare con l'Akavel Kiakowski. Questa è una coppa, abbiamo capito quest'anno che questa coppa noi non la giocavamo. Cioè, sì. Il messaggio, al di là degli episodi, probabilmente se le rigiochiamo tutte e cinque, non le vinciamo tutte e cinque, ma, le vinciamo quattro. Intanto l'abbiamo fatto, punto. L'abbiamo fatto, la strada è ancora lunga, credo che sia la prima volta negli ultimi anni che le squadre italiane stanno affrontando questa competizione con il rispetto. Ieri, guarda, ieri De Rossi nell'intervista Super Flash, quella a Bordo Campo, ha detto mi piace la Coppa UEFA perché mi ricorda quando ero bambino. Poi è ovvio che la Champions è un'altra cosa, sì, non si discute. Però affrontare questa Coppa pensando che non sia una rottura di scatole, ma chiaro, negli anni scorsi. Poi ci sono state le eccezioni, la Lazio è andata molto bene 2 anni fa, è arrivata nei quarti di finale e protesta ancora per un arbitraggio a Istanbul molto brutto, senza il quale magari passava il turno. Quindi qualche eccezione c'è stata, però quest'anno mi sembra... Dai, 5 su 5, cioè sono emozioni vere, e magari il segno che qualcosa sta cambiando, sì, che la china è stata... invertita, poi, che poi magari diamo due numeri, perché poi diamo due noi numeri. Cominciamo a rialzare la testa, che significa anche guardare a quel terzo posto sopra. Non certamente, siamo così lontani, non fatevi tradire dai numeri che leggete. Tutti convocati. Zaretti è stato proprio il giocatore che abbiamo scelto perché venisse qua. Uno pulito in tutti i sensi. Giocatore che ha messo più volte la maglia della nazionale. Per il suo cuore, muy completo. Tu eres fuerte, pero yo soy más fuerte que tú. Lui crede di essere un cantante. Javier è pazzo. Vai avanti, dribbla ne uno in più e fai gol. Protezione il destro, grandissimo! È lo spettacolare gol da parte di Zanetti. La mejor sensación que un entrenador puede tener. Allora, io credo che per gli interisti tutti ci siano tre capitani nella storia: Armando Picchi, Giacinto Facchetti e Javier Zanetti. Questa sera, oggi, in contemporanea in molti cinema, esce questo film Zanetti Story, che ricostruisce la carriera del terzo e ultimo grande capitano dell'Inter, con Mourinho che piange, con il triplete e con la storia di uno dei giocatori che gli interisti, anzi del giocatore che gli interisti di nuova generazione hanno amato di più. Ciao capitano. Ciao a tutti. Come stai? Bene, tutto bene. Pardo, ci sei, vero? Ci sono, come ti senti da divo del cinema? Sì, no, sinceramente non me lo immaginavo, però siamo quasi già alla presentazione, allora speriamo che vada tutto bene. Ma meglio tu o Brad Pitt? No, non esageriamo adesso. Io sono all'inizio. Poi abbiamo sentito Paola. Io ho avuto la fortuna di vedere in anteprima il film settimana scorsa. Molto bello, molto emozionale. Ha detto che tu credi di essere un cantante, quindi prima della fine lo sentiamo. Se è vero che credi di essere un cantante. No, ci sono tante cose. A me poi ha un po' colpito, ad esempio, che su sta storia di Avion Sito Rambert, che era l'altro arrivato insieme a lui, nel film ci sono due versioni discordanti. Cioè Moratti che dice no, ma noi volevamo prendere Zanetti, quell'altro no, e invece ci sono altri che dicono no, Zanetti l'abbiamo visto per caso. Ci racconti com'è andata davvero? No, in realtà quello lì era arrivato Rambert, Roberto Carlos e Polins, e dopo sono arrivato io come quarto straniero. All'epoca mi ricordo che potevano giocare soltanto tre. Quindi ha fatto un po' il Pinocchio Moratti. No, perché quando loro hanno preso Rambert, dopo il presidente insieme a suo figlio ha visto una casetta nostra dove ho giocato io e gli è piaciuto una mia prestazione, allora ha detto prendiamo anche il numero 4 di quella nazionale argentina, che era l'Under 23. Allora per questo sono arrivato anche io. E poi tu sai il debole che io ho per la nazionale argentina, che è quella che sento nel mio cuore, questo è il mio capitano, non dell'Inter ma della nazionale argentina. Pardo, il 4 maggio andiamo a San Siro a fare la telecronaca di questo match in cui Zanetti torna in campo, Match Expo, Zanetti and Friends. Sono curioso di sapere chi saranno i Friends. Sì, sì. Tanti che di sicuro vogliono essere insieme a me in questa grande manifestazione, tra l'altro il primo evento sportivo a Spo, Allora, per noi è molto importante, anche perché la vendita di tutti i biglietti ricavato andrà a tante associazioni che lavorano su Milano. Possiamo venire a fare la radiocronaca? Io parlo di Capuano, certo, ma già siamo lì, no? Vabbè, ci vuoi lì? Come no? Sì, sempre. Anche un quarto d'ora per uno, volendo, eh? Io... Ok, dopo ne parliamo con gli allenatori. Come te l'aspettavi, Avie, la carriera, quel giorno, ripensando a quell'immagine di quella presentazione lì, più di 20 anni fa? Te l'aspettavi così? C'è un rimpianto? No, rimpianto no, perché credo che dopo aver praticamente fatto tutta la mia carriera vestendo solo una maglia, che è quella dell'Inter, diventare capitano, referente, con l'affetto che hanno i tifosi nei miei confronti, sinceramente, essendo straniero all'epoca e molto giovane, non avrei mai sognato o immaginato una carriera del genere. Allora sono molto soddisfatto e soprattutto non smetterò mai di ringraziare a tutti i tifosi interisti, alla famiglia Moratti e tutti quelli che mi hanno accolto fin dall'inizio come se questa fosse casa mia, che dopo l'ha diventata. Senti, da padrone di casa, ci dici due cose su questo sorteggio di oggi? Cioè, ti sembra che non sia andata benissimo perché il Wolfsburg è forte, oppure tu fai parte dell'altra metà del popolo interista che dice sì, però se lo passiamo, poi Varsavia non è così lontana? No, sicuro, quando arriva questa stanza qua, tutte le squadre sono forti, però questa squadra qui 2 settimane fa va tutto il Bayern, allora di sicuro che non sarà una partita semplice. Il fatto dopo di giocare in casa al ritorno, questo è importante, però bisogna far bene la prima partita per cercare non di chiuderla, però almeno di avere i presupposti per arrivare ai quarti. Anche perché chiuderla avete dimostrato ieri sera, che l'Inter quest'anno è destinata a non chiudere niente, cioè si può rischiare sempre comunque. Soffriamo, però ieri un'altra dimostrazione che le cose stanno migliorando. Credo che le partite che abbiamo vinto in campionato hanno aiutato anche soprattutto i ragazzi ad avere più autostima, più fiducia. Il lavoro di Roberto si vede e speriamo continuare. Pardo, che ne pensi? No, appunto, dico, il mancio ha scavallato, come si dice in gergo qua, sul grande raccordo anulare, forse anche nel resto d'Italia, cioè ha superato la fase quella complessa, la strada è in discesa? Non so se in discesa, però di sicuro la situazione ha migliorato tantissimo. Siamo adesso soprattutto anche a un punto dell'Europa, che è il nostro obiettivo. Un mese fa purtroppo quelli che non arrivavano erano risultati, perché le prestazioni tutto sommato non è che erano così brutte. L'importante è che i ragazzi hanno capito la importanza per la società, anche per i nostri tifosi, di tornare ad essere protagonisti. Credo che ce la stanno mettendo tutta. Senti Savia, ti chiedo ancora questo: tu sei in questo momento la voce più importante dell'Inter, perché va bene presidente Toir, Moratti del passato eccetera, però credo che non ci sia nessuno che i tifosi dell'Inter amino come te, che sia rimasto in società. Vuoi dire qualcosa ai tifosi? Ai tifosi, che noi in tutti i modi cercheremo di costruire una società e una squadra che porti i valori che c'ha questa grande storia dell'Inter. Noi credo che insieme dobbiamo lavorare per cercare di raggiungere l'obiettivo il più presto. Sappiamo che è una situazione sì semplice, perché il calcio italiano non è che attraversa un momento buono, però credo che in futuro speriamo di tornarci, perché credo che la piazza lo merita. Me la fate togliere una curiosità, ma questa storia dei pizzini di Mancini, ieri abbiamo visto che ha portato il foglietto a Ranocchia, che l'ha portato a Medel, che l'ha portato a Shaqiri, ma faceva così anche 10 anni fa, quando c'eri tu, o con voi bastava un'occhiata? No. Con noi urlava più da adesso. Non serviva a mandarvi i suggerimenti scritti. Ho una curiosità decisiva per la popolazione, ma tu, cioè, l'ultima volta che sei stato spettinato, quant'è? Nell'intimità, dacci una speranza, una lotta col bulbo tutti i giorni, perfetto, inappuntabile, ci sarà una volta che sei stato spettinato? Sì, sì, soprattutto quando sono a casa, che i miei figli mi prendono i capelli e me lo fanno apposta. Che è quando canta. Che è quando, no? Che è quando, sì, canta. Che è quando così canta. Smetto, smetti di cantare, papà. Capitano, dove arriva Icardi? Icardi sta facendo molto bene, è molto giovane, credo che c'ha tutto davanti. Secondo me può arrivare a essere un grandissimo giocatore. Grazie, capitano. A voi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao Xavier Zanetti. Comunque, chi può, perché mi hanno detto che i biglietti sono tutti esauriti, vada stasera a vederlo il film. Zanetti, credo che comunque racconti una bella storia. Credo sia uno dei giocatori più trasversali in assoluto, no? Però mi hanno detto che non ci sono più biglietti, eh? Xavier Zanetti è disarmante. È disarmante perché non. Bagarì. No, perché è impossibile trovargli un difetto. Cioè, vero, a parte tutto, anche negli anni in cui l'Inter non vinceva, anche negli anni che ci sono stati bui, però lui insomma è sempre stato un baluardo di correttezza, di insomma, poi si cade veramente in una retorica che mi fa anche schifo, però è così, cioè, appunto, da questo punto di vista Zanetti è disarmante, perché è stato un esempio senza macchia, senza paura. Sì, il mio capitano, le lacrime agli occhi per ascoltarlo, rientro più tardi in ufficio. Paolo da Prato, vai in ufficio. Paolo, corri, corri, che è tardi per andare. Devo in ufficio. Quello di ieri, quello delle 5 squadre italiane. Dov'è sei? 800240024. Tra poco, subito dopo il traffico, c'è Pierpaolo da Firenze, Marco da Udine, ma c'è anche nel campionato che promuove 5 squadre in Europa League la partita fantasma, che tale resterà. Pare di sì, Lucarelli, due punti, aperte virgolette, abbiamo deciso di non giocare a Genova, decisione presa in accordo con l'Associazione Italiana Calciatori, notizia che gira in questi secondi, io la prendo da Twitter, da alcuni colleghi che sono assolutamente credibili e quindi la diamo per buona, ma adesso la verifichiamo. Traffico. Una serata unica, indimenticabile, perché oggi facevo 700 partite con l'Inter e credo che non è stato il miglior modo di poter festeggiare vincendo questa grande coppa. Tutti convocati. Dunque, torniamo a ciò che mi scrive Toro con 7 italiani nell'11 iniziale. Io vi leggo un messaggio, credo di non rivelare nulla. Filippo Galli è un amico, nei prossimi giorni lo sentiremo. Stamattina mi ha mandato questo SMS: Osanna al calcio italiano. All'andata di questo turno ho fatto una ricerca sugli italiani titolari in campo nelle 5 squadre impegnate. Erano il 23,6%. Il calcolo degli Under 21 2 è pari al 3,6%. Filippo Galli lo chiameremo nei prossimi giorni e parleremo anche di questo aspetto della grande serata comunque del calcio italiano in Europa League, che va celebrata. Pierpaolo, Firenze, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signori, buongiorno, piacere di conoscervi a tutti. Reciproco. Ma siamo contenti, 5 su 5 possiamo essere ben d'onde contenti. Certamente, bisogna. Fate questo, poi naturalmente si ripropone il grande derby Fiorentina-Roma e Roma-Fiorentina, che attualmente in questa stagione è una vittoria, un pareggio e una sconfitta per la Roma o viceversa, quindi spettacolo garantito. Ora bisogna sentire se Matteo Renzi riesce a convincere il sindaco di Roma, ovvero Marino, il sindaco di Firenze, nonché il violoncellista, si chiama Nardella. Sì, è fattibile l'idea della ragazza, della signora, prima ascoltatrice, che voleva riuscire a fare portare gente nei due siti, Roma e Firenze, infatti sono anche patrimonio dell'UNESCO entrambe le città, sarebbe un bel terzo tempo. Sì, ma certamente, ma Pardo lo sostiene, no? Anche qua abbiamo già messo il cappello su questa proposta, la proposta da tutti convocati nei musei. No, ma ripeto, vedo solo cose positive. Valgono anche le piazze storiche, non solo i musei. Sì. Cioè, la cosa avrebbe anche un sano valore, diciamo, simbolico, politico, no? Nel senso che comunque chiaramente una cosa del genere avrebbe una visibilità anche internazionale, sarebbe una bella occasione di visibilità per il nostro patrimonio artistico, che ne ha bisogno fino a un certo punto perché è già abbastanza famoso, ma la pubblicità non fa mai male, e poi anche per la civiltà dei tifosi italiani che spesso in questi anni sono stati anche protagonisti in negativo, sono stati diventati improvvisamente persone civili e gli altri sono dei delinquenti. Non è così, lo sappiamo benissimo che c'è il buono e c'è il brutto in ogni paese, però insomma cerchiamo di fare le cose per migliorare, ecco, tutto qua. siccome siamo la grande cosa, con tutti i problemi che abbiamo, le crisi, è che noi siamo, cioè quell'immagine di quel tifoso lì che lanciava col piede le lattine nella barcaccia, che è l'immagine che a me mi è rimasta più impressa, no? Perché sì, è proprio l'immagine di uno che non capisce, cioè che credo che, o che non capisce o che se ne frega di quella roba lì. Non ma forse è più la prima che hai detto, forse è più la prima, dai. Capito, noi grazie a Dio, con tutti i difetti, la corruzione, i partiti, le cose che ci fanno incazzare, però siamo abituati ovunque in Italia a vivere di bellezza, perché abbiamo la fortuna di essere nati, certo, in un paese molto bello. Molto, molto bello. E quindi questa cosa che cerchiamo di trasformarla in qualcosa di positivo. Ecco, un gesto del genere mi piace pensare che un italiano lo farebbe. Mi piace, poi ci sarà chiaramente l'espressione, insomma, pure da noi ci sono i vandali, però insomma cerchiamo di approfittare di queste occasioni per, sì, non esageriamo per con la fiducia. Siamo ottimisti, ma no, mi piace leggere questo messaggio che voglio dire è molto, molto dolce, forse fin troppo, però da milanista, grazie Zanetti, scrive Oscar. Un piacere avere con noi per un aggiornamento sulla situazione Parma il presidente dell'Associazione Calciatori, Damiano Tommasi. Buongiorno Damiano. Buongiorno. Allora, abbiamo letto ora questa notizia che poi non mi ha dato, ripetiamola, non si gioca. Che non si gioca a Parma-Genoa, l'ha annunciato Lucarelli, decisione presa insieme all'Associazione Italiana Calciatori, il che mi fa pensare, Damiano, che è una decisione presa, cioè da qui a 48 ore non succede altro. No, è una richiesta di rinvio della partita che abbiamo fatto alla federazione. E dovrà la federazione decidere se rinviare o meno la partita. Quindi voi immaginate un copione simile a quello di domenica scorsa per Parma Udinese? Sì, io personalmente lo auspico, anche perché non ci sono oggettivamente, insomma, le condizioni per i ragazzi del Parma di andare a Genova e per affrontare una partita di Serie A con la dovuta serenità e serietà che merita. Ma cosa può cambiare? Cioè, saltata la partita con l'Udinese, magari salta anche quella con il Genoa senza lo 0-3, cioè, a tavolino. Esiste la possibilità di arrivare in fondo. E poi c'è Parma-Atalanta e non ci sono più gli spogliatoi, l'abbiamo raccontato prima, li stanno smantellando al Tardini. Ma c'è un'assemblea della Lega di venerdì, oggi il presidente Manenti incontrerà nuovamente il sindaco di Parma, il tribunale si sta muovendo, le procure, quindi noi speriamo che questa settimana possa dare qualche spiraglio in più per il futuro del campionato del Parma e permettere alla squadra di scendere in campo come deve e come merita il campionato. Pardo, vuoi chiedere qualcosa da Tommaso? Volevo capire se questa è la chiave, se questa assemblea di Lega è la chiave. Nel senso che è chiaro che adesso mettersi a sospendere le partite del Parma e accattarle tutte a fine stagione. Non ti sento, Piero. Io mi sento, pronto? Eccomi. No, dico, accatastare le partite tutta la fine non ha molto senso, però ha senso solo se c'è la possibilità che si sblocchi qualcosa. È quell'assemblea di Lega, con la proposta delle varie società di fare la loro parte, l'unica possibilità che c'è per poter accettare anche il secondo spostamento consecutivo dopo Parma Udinese? Ma la federazione farà le sue valutazioni, lo abbiamo fatto presente anche d'accordo con i giocatori del Genoa, dobbiamo sottolinearlo, visto che in una situazione di questo tipo ci si poteva avvantaggiare anche alla luce della sensibilità di tutte le altre squadre, quindi per rispetto delle altre squadre che dovranno anche in futuro giocare contro il Parma, la richiesta è quella di aspettare quantomeno questa settimana e capire se la Lega riuscirà, se avrà la forza e ci saranno gli spiragli per intervenire. Detto questo, c'è anche ovviamente l'opzione Manenti che rimane ancora in piedi, purtroppo per fortuna, e che può essere la soluzione, però ad oggi credo che quella più attendibile e più credibile possa essere, insomma, accelerare un procedimento che possa far subentrare la Lega o chi per loro ad una gestione provvisoria fino alla fine del campionato. Senti, non hai l'impressione che si stiano un po' forzando le regole, magari anche in maniera logica, giusta, però si sta comunque creando un precedente? Ma purtroppo si è creato un precedente, ma un sistema come quello che abbiamo messo in piedi con questi ricavi certi all'inizio della stagione da parte di una società di Serie A e a novembre non si riesce a pagare lo stipendio di agosto, credo che sia una straordinaria situazione che prevede straordinarie prese di coscienza. È un'eccezione, per esempio. C'è chi parla di irregolarità del campionato, non credo ci siano molti dubbi su questo, Damiano. Ma non può riferire. Noi stiamo cercando e per questo abbiamo chiesto il rinvio della partita, che certo, le partite che si giocano da qua alla fine siano partite serie e serene e con tutte e due le squadre in campo per un solo motivo, che sia quello sportivo. Purtroppo oggi Parma non è nelle condizioni di andare in campo per un motivo sportivo, e la soluzione deve arrivare dalle istituzioni calcistiche soprattutto, e purtroppo oggi c'è un paletto che si chiama Panenti e che o per mancanza di volontà o per mancanza di risorse o per mancanza anche di spirito di iniziativa non riesce a far sbloccare la situazione a nessuno. Certo. Grazie Damiano, grazie Damiano Tomasi, presidente della Sasso Calciatori. Ci fermiamo per il GR al volo, poi torniamo. Pier, stai con noi. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Soddisfazione doppia, nel senso che venire qua in questo stadio davanti a 50.000 persone non era facile, però siamo stati bravi, siamo scesi in campo determinati con il giusto atteggiamento e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Sì, però intensa e veramente felice, perché fare la storia con questa maglia è importante non solo per me sino per tutta la squadra, quindi abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo saputo rispondere in ogni momento della partita e la cosa importante è che giocando a calcio bene. La loro partita, la loro vittoria, sono felice naturalmente per i tifosi, quelli di Torino che sono rimasti, questi che sono venuti, ma credo che sia veramente la loro partita. Qua c'erano Vives, Glick e Darmian che sono partiti 4 anni fa con noi, ricordavamo la prima partita di campionato ad Ascoli 4 anni fa, e oggi credo che sono arrivati agli ottavi di Europa League meritatamente, ci sono arrivati attraverso mille difficoltà, mille sacrifici, mille sofferenze, ma credo che queste soddisfazioni poi ripaghino di tutto. Allora, la grande nota del Torino, Pierluigi Pardo, ti devo dire una cosa. Sì. Allora, il sindaco di Firenze Dario Nardella sta per intervenire perché vuole aderire laddove noi abbiamo attaccato il cappello. Benissimo, benissimo. Va bene. Molto bene. Ti ho chiesto i tempi supplementari anche perché c'è in linea con noi il presidente del Toro Urbano Cairo. Buongiorno. E io invito tutti quelli del Braccino a chiamare adesso. Li abbiamo 800 24 00 24. E io vorrei chiedere a Cairo di fare per una volta il Ferrero e di prendersi la sua rivincita. No, dai, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno, no, so che non è il suo stile, ma per favore, glielo chiedo per favore. No, ma lo fate voi benissimo. Io sono felicissimo della grande vittoria di ieri sera, che è una cosa di portata storica, perché nessuno ce l'aveva mai fatta delle italiane a vincere in quella bolgia del San Mamés. Nessuno, devo dire, prima volta nella storia. Grande prova, grande prestazione dei nostri giocatori, messi in campo benissimo dal nostro mister, ma loro ci hanno messo qualcosa anche di loro speciale, perché devo dire li ho visti proprio veramente determinati, volevano farcela. Io li ho seguiti in trasferta da mercoledì pomeriggio, quindi mi sono preso 2 giorni dal lavoro perché ci tenevo troppo ad essere lì con loro e a sostenervi, e devo dire la cosa è andata bene perché hanno fatto una grande partita e sono molto contento. Adesso tutti quindi, a San Pietroburgo. Discorso San alla squadra all'Alfacino, presidente, che è stato? No, i discorsi li fa il mister, non c'è da fare discorsi particolari. Quando i presidenti parlano troppo alle squadre è perché le cose non vanno bene e continueranno a non andare bene, perché chi conosce i giocatori meglio di tutti è il mister, che li vede tutti i giorni in campo e li vede tutti i giorni come si allenano, perché questa è la cosa importante. Presidente, che qualcuno potrebbe pensare che sta parlando di Berlusconi. No, ma che oggi non è andato oggi non è andato per la quarta volta in fila. La seconda volta di fila, non è esageriamo. Secondo, però 4 delle ultime 5, se non sbaglio. No, ma Berlusconi ha fatto bene quando aveva dei giocatori straordinari. Dopodiché oggi sta facendo, ha dei buoni giocatori e sta facendo più fatica. Quindi non è taumaturgico neanche lui, perché comunque sia non è così facile andare lì. Cioè, non è che tu sovverti facendo dei discorsi, i giocatori comunque sia, ci sono dei temi tecnici, dei temi di squadra, di come è messo in campo, organizzazione, eccetera eccetera, tutte cose che evidentemente un presidente non è che va lì e dice due parole o anche mezz'ora di discorso, ma poi i giocatori non è che ti seguono, al quinto minuto li perdi. Senta presidente, ma a parte lei, Ventura e Petrachi, ammesso che tutti e tre ci credeste, Maxi Lopez, cioè chi ci credeva nel fatto che fosse ancora un giocatore di queste detto, hanno la pozione livello, magica a Torino, hanno la pozione magica, ma Immobile reduce da una stagione negativa, Cerci che a Firenze faceva più danni che calcio, e adesso Maxi Lopez. No, ma Maxi Lopez noi ci credevamo molto perché conoscevamo il giocatore, che è un giocatore che ha fatto delle cose importantissime qualche anno fa, il giocatore comunque fisicamente integro, gli abbiamo parlato, abbiamo visto in lui una grande voglia di fare bene, di rivincita, e lo abbiamo accolto a braccia aperte, mettendolo veramente a suo agio al 100%, e lui ha dato grande disponibilità per fare veramente bene come sta facendo. Ha fatto 3 gol in Coppa, col Bilbao ne ha fatti 3 praticamente, 2 all'andata e 1 al ritorno, e ne ha fatto 1 in campionato importantissimo a Cesena, l'assist con l'Inter, insomma devo dire ha fatto veramente benissimo. E inizialmente quando lo prendemmo sembrava che non fosse lui il vero rinforzo, tant'è che qualche giornale, senza fare nomi di tutto sport, mi ha rimproverato che non avevo fatto gli acquisti, eccetera eccetera, ha mandato la sveglia qua e là, però insomma adesso scherzo, ti ho fatto Ferrero per 2 secondi, dai. Bravo presidente, stavo dicendo la stessa cosa, giuro, finalmente mi ha fatto Ferrero. Tardo, per favore fai dire lo Zenit. Tutti Zenit, a San Pietroburgo. Beh, questo sicuramente sì. Mi sono già sbarrato l'11 e il 12 sull'agenda per essere con i miei giocatori. Tutti l'Ermitage. Visto che siamo in tema di cultura. No, però insomma, lo Zenit è una grande squadra. Grande squadra, però poi dopodiché, insomma, noi abbiamo dimostrato ieri sera di avere delle qualità importanti e di essere una squadra che ha compattezza. Dobbiamo non crederci fino in fondo e continuare a lavorare per essere quel che siamo stati ieri sera, possibilmente anche meglio. Ce la possiamo fare. Comunque il Toro non è Toro se non becca la squadra più forte dell'Urna, no? Devo dire veramente, abbiamo beccato, se non la più forte, insomma sicuramente una delle 3-4. Un po' di sfiga. Anche il Bilbao, quando l'abbiamo preso, come dire, c'era da essere un pochino preoccupati, poi in realtà abbiamo giocata e abbiamo fatto benissimo, quindi secondo me le partite si giocano tutte. Poi la squadra vedo che ha autostima, consapevole, sta crescendo bene, ieri veramente li ho visti tutti alla grandissima, quindi proprio molto molto bene. Alla faccia di quelli del braccino, presidente, lo dica. No, dai, ma lo dica. No, prego, a proposito di braccino, quanto vale Darmiando poi ieri sera? 15, 18? So. 20 18 è la guerra, 15-12 è la guerra, 18. No dai, non lo so, io non penso a questo, io penso che sono felice per lui perché sta diventando anche goleador, gliel'ho detto ieri sera, ormai siamo già al quarto gol, stai diventando uno dei più bravi a fare gol, anche oltre a essere un buon difensore. No, lui è poi un ragazzo eccezionale, veramente fantastico. Presidente, 20 secondi, deve ottenere, siccome sanno che io il mio cocco, quando deve ottenere la squadra, quando deve ottenere qualcosa, dice a Darmian, vai, solo tu vuoi. Quindi le hanno chiesto il premio, no? Presidente, altri 20 secondi di ferrerismo. Il Torino quest'anno sta facendo meglio dell'anno scorso? È meglio dell'anno scorso? No, beh, adesso questo... Cioè, questo... meglio di quello di Cerce Immobile? Meglio di quello che stai insinuando? Ragazzi, siamo... Cioè, leggi, dov'è il Torino? Siamo in Europa. La cosa che dico io è che l'anno scorso è vero che alla fine dell'anno avevamo fatto tra Cerci Immobile 35 gol, che vuol dire che probabilmente ad oggi ne avranno fatti grosso modo 22-23, i due terzi, no? Così come siamo ai due terzi del campionato. Quest'anno abbiamo Quagliarella che ne ha fatti 13 tra Coppa e campionato, abbiamo Maxi Lopez ne ha fatti 4, Martinez ne ha fatti 6 e siamo a 23. È vero che c'è anche la Coppa, però alla fine, voglio dire, li abbiamo rimpiazzati anche abbastanza bene. Abbiamo qualche gol in meno rispetto allo scorso anno, ma neanche troppi. Per cui stanno crescendo bene tutti quanti, insomma. Pardo, sì. Che vuoi chiedere al presidente? Sì. A cosa voglio chiedere? Non avevo capito. Sì. No, la priorità diventa l'Europa League, premesso che il Torino sta andando benissimo anche in campionato e comunque, insomma, no, vincere aiuta a vincere, non bisogna mai snaturarsi. Però, insomma, a questo punto l'indicazione è diversa rispetto a quello che nel passato succedeva, cioè non soltanto al Torino, dico. Diventa il primo obiettivo l'Europa League? Diciamo che noi abbiamo i due obiettivi importanti, sono campionato e Europa League, tutte e due stesso livello, non ce n'è uno più importante dell'altro. Il campionato è sempre fondamentale, poi è chiaro, l'Europa League siamo agli ottavi e quindi è fondamentale. Voi ricordate quando ci parlammo a luglio che dissi noi onoreremo l'impegno di Europa League? Così stiamo facendo, perché gli abbiamo dato molta importanza e l'abbiamo considerata una cosa per noi importantissima, anche per far ritornare il Toro in Europa a un certo livello, farlo rivedere e ridare, come dire, gioia e soddisfazione ai nostri tifosi che ieri ho incontrato a Bilbao. Io ho fatto un giro per la città, sono stato al Guggenheim, era veramente pieno di tifosi del Toro e sono stato al Guggenheim per un'ora in più a fare foto e a firmare autografi, veramente abbiamo, la città era tappezzata. Non so se ci stava seguendo, ma noi abbiamo lanciato adesso l'ipotesi di un gemellaggio museale fra Roma e Firenze, col sindaco Tardella che già ci ha dato un ok, quindi adesso perché è uscita Roma-Fiorentina, ma in generale tra le città italiane, insomma, è bellissimo che possa succedere. Com'è il Guggenheim? Il Guggenheim è una costruzione bellissima, con anche evidentemente all'interno dei pezzi importanti di arte contemporanea, è molto bello, è un museo che consiglio, è veramente molto, molto bello, come tutti i Guggenheim, anche quello di New York e di Venezia, insomma, molto, molto di qualità. Bilbao è molto bella, peccato che quest'anno le coppe a Bilbao purtroppo non ci si possa più andare, perché la di Bilbao è uscito. Si può andare in vacanza quest'estate. E poi comunque la gente di Bilbao è veramente gente straordinaria. C'è una specie di gemellaggio naturale tra il Toro, i tifosi del Toro e quelli del Bilbao. C'è molto feeling. Peccato che sono andati a casa. Secondo me Pierre è passato da Amsterdam altro che Rotterdam. No, il Bilbao, io capisco anche il discorso delle vicinanze, perché sono due società, no? C'è un tremendismo Granata, ma volendo c'è anche un tremendismo del Bilbao, ovviamente, altro con la storia, altro con i giocatori che, altro sono pazzi, veramente è una grande società, mi ha molto colpito. Mi fate fare i seri per 30 secondi? No. È anche grande, come, cosa faccio? No, io Capuano va a fare serio per 30 secondi prima di salutare il presidente. Fai. No, no, presidente, noi abbiamo raccontato un quarto d'ora fa con Tommasi questa scelta dei giocatori del Parma di non andare a Genova, chiedendo alla Federcalcio un rinvio, però insomma fondamentalmente è stato compiuto un passo drammatico, importante, decisivo, e niente, volevo capire lei cosa ne pensa. Ecco, io ho perso, cioè cosa è successo? Che loro non hanno chiesto di non andare. Sì, loro dicono noi a Genova non ci andiamo, poi non giocheranno. Formalmente l'associazione calciatori sta chiedendo alla Federcalcio di rinviare la partita, però vabbè, evidentemente è una scelta importante. Qui il tema vero è di capire se il Parma può arrivare in fondo fino a fine campionato, e allora benissimo, gioca le partite, però ecco, non sarebbe bello che alcune partite le gioca, altre no. In alcuni casi viene dato il 3-0 a tavolino, cioè allora lì veramente sarebbe una cosa non bella, secondo me. Io dico, se il Parma va aiutato, benissimo, io felicissimo, però ecco, nel momento in cui il Parma è in campo e gioca, non può essere una cosa a singhiozzo, un po' sì, un po' no, certo. Deve essere una cosa in cui il Parma gioca tutte le partite, come hanno dimostrato di fare con la Roma a Roma, e questo va benissimo. E allora, ripeto, io do anche una mano se, per questo, nei limiti del possibile e del giusto. Quindi se c'è da tirare fuori Lega, i famosi 10 milioni come Lega, magari facendo un sacrificio tutto, il Toro alza la mano e dice sì. Vabbè, ma benissimo. È stato contattato? Cioè, voglio, o come presidente del Cagliari, ma nessuno me l'ha detto. Cioè. No, non mi ha contattato nessuno. C'è un'assemblea il 6 marzo in cui si parlerà del caso Parma. Però ecco, allora il tema è: o c'è una cosa per cui tutti quanti insieme si dice benissimo aiutiamo il Parma, però poi allora dico, per dire magari un'altra squadra che sta lottando, che ne so, il Cesena, dice ma allora perché non me? Cioè, sì. Sono cose molto delicate. Però se il Parma gioca deve giocarle tutte, non una sì, una no. Quindi io sono solidarissimo nei loro confronti, perché comunque mi dispiace che devo dire, loro stanno dimostrando di avere veramente grandissima professionalità e quindi vanno assolutamente ammirati e applauditi. Però ecco, secondo me ci deve essere una situazione in cui si fa l'atteggiamento identico per tutte le partite. Questo è un po' il discorso che io dirò nella Lega, nell'assemblea di Lega del 6 di marzo, perché credo che sia giusto, insomma, è un fatto di giustizia. Il tema è che il passaggio di questo weekend è difficile, perché siamo fuori dalle regole, non è che la Federcalcio può continuare a rinviare partite, quindi qui bisogna prendere una decisione. Presidente, grazie, la saluto con questo messaggio, speriamo che ci porti fortuna anche l'Ermitage. Benissimo, che è meraviglioso, più del Guggenheim. Altra bella città. Assolutamente sì. Grazie, presidente. Grazie a voi. Arrivederci, Urbano Cairo, presidente. Pierre, sì. Stai con altri tre minuti, perché dovrebbe intervenire Marino. E, insomma, visto che siamo Nardella. No, Marino lo chiamiamo, visto che siamo l'attore di questa proposta. E poi insomma decideranno loro come farla, se farla ovviamente, sì. Però insomma facciamo qualcosa, dai, vediamo se riusciamo a costruirla. Io e te Capuano ci mettiamo la divisa blu col cappellino e facciamo il cartello, e noi siamo pronti. Allora io se faccio questo, perché io vorrei andare tutte e due, capito? E quindi sto facendo questo, che dico no, vado io. A proposito della questione Parma, poi l'amico Poppy Bonnici, che è un nostro ascoltatore, ha scritto e ci ha condiviso in questo messaggio, e pensate anche ad esempio a se ci sono ricadute in termini di diritti televisivi, Sky, Mediaset che hanno contratti firmati, se salta il Parma saltano le partite, magari la Lega potrebbe anche dover restituire qualcosa, tema di cui credo si parlerà nei prossimi giorni. Pier? Sì, non so nulla in proposito, però diciamo, da un punto di vista aritmetico ci sta, è chiaro che se io pago X per avere top partite, se me ne levi alcune me le dovresti scontare. Questa è logica, però ecco, non so nulla, poi chiaramente io sono un umile telecronista, quindi mai faccio il dirigente di Mediaset, così come non lo facevo di Sky, quindi è una cosa che si deciderà anche lì, probabilmente ci saranno valutazioni di carattere politico, però insomma ci può stare anche ovviamente questo tipo di atteggiamento. Senti Pierre, il sindaco di Firenze lo stiamo cercando, ma non lo riusciamo a trovare. Dario Nardella, d'altra parte ci ha cercato lui, e sarebbe veramente bello averlo nostro ospite, non risponde attualmente al telefono. Allora, Zenit Torino, Wolfsburg Inter, Dinamo. Hai gli orari, io sto qui. Gli orari te li diamo. Lui è quello preciso. Allora, Capuano, se quello preciso, io lo so. Quello preciso è Giovanni Capuano. Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. All'andata il 12 marzo giocano alle 19 Zenit Torino e Wolfsburg Inter, e alle 21 Napoli Dinamo Mosca e Fiorentina Roma. Al ritorno ovviamente si inverte tutto, e quindi le partite alle 19 sono il derby italiano e la trasferta del Napoli, e alle 21 Inter Wolfsburg e Torino Zenit. Capito? Quindi se vuoi ti dico anche che cosa va in chiaro, così tu sai dove vai a finire. Lo sai già? No, non lo sai. No, però mi sembra che sia abbastanza intuitivo. No, guarda che quest'anno sono state varie strategie diverse, non c'è una cosa. Bel derby d'Italia, dai, su. Il derby d'Italia all'andata e Inter Wolfsburg al ritorno, via, cioè, ci lanciamo. Il derby d'Italia all'andata e Inter Wolfsburg al ritorno. Non lo so, sinceramente non lo so, vedremo. Comunque insomma, ieri, tra l'altro, adesso visto che è portato l'argomento, insomma, ascolti clamorosi sia per Premium, per le partite diciamo criptate, che hanno fatto 1.800.000 in totale, che poi insomma anche su Canale 5 la Roma ha fatto quasi 6 milioni tra Canale 5 e Premium, insomma. È la dimostrazione che poi, no, tante volte si dice il calcio non piace più, il calcio ha rotto la scala, poi se le cose vanno, le squadre sono competitive, la gente vede comunque che c'è cuore, coraggio, qualità, impegno, eccetera, eccetera, poi alla fine il calcio si guarda, ti segue. Ciao Pier. Ciao Pierluigi Pardo, che ritroveremo domenica dalle 5 alle 7, tanto io e te siamo qui, dormiamo qui, soggiorniamo qui. Gianni da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Sindaci li becchiamo, prima o poi li becchiamo, se non adesso domenica con Capuano, i sindaci di Roma e di Firenze li becchiamo e facciamo questo gemellaggio museale. E noi già ci offriamo come maschere con abito blu e cappellino e cartello d'ordinanza. Dica. Dunque, ieri sera eravamo un gruppo di amici che stavamo lì a chiacchierare e si parlava dell'Inter, perché ci sono anche due o tre che sono dell'Inter. E si diceva che una delle scommesse vinte, delle vittorie diciamo di Mancini, è stato il recupero di Guarin. Di Guarin, ecco, sì, il recupero di Guarin. Esatto, sì, il recupero di Guarin. Ma si diceva anche che si parlava anche di Kovacic. Quindi volevo sapere un po' che ne pensavate voi, anche Pardo è andato via, ma Beh, ne abbiamo parlato molto spesso, peraltro. Guarin, totalmente recuperato, tra l'altro è al gol numero, Giovanni? Non lo so, numero 4 nelle ultime tre partite, vado a memoria. Però di sicuro Mancini l'ha rimesso al centro del villaggio, sì. Per parafrasare Garcia, cioè sì. L'ha rimesso laddove Guarin, che è un ottimo giocatore, lo è sempre stato, anche se incostante, però rende di più. E secondo me il problema di Kovacic è esattamente a schermo il contrario, cioè ha la difficoltà ancora a trovare una sua collocazione, certo. Una sua identità tattica. Tre allenatori ha avuto, Stramaccioni, Mazzarri e Mancini, e tutti e tre dicono cose diverse su dove renda al meglio. È giovane, ha ancora del tempo, perché ha, certo, evidentemente ancora del tempo per esprimersi al pieno, però in questo momento sta facendo un po' fatica e diciamo che l'arrivo di Shaqiri non l'aiuta. No, non perché aiuta. Shaqiri è diventato il centro, Brozovic è quello che dà gli equilibri, 20 metri più indietro Kovacic in questo momento galleggia un po' tra questi due. Come è giusto che sia. Allora, cari sindaci di Roma e di Firenze, vi aspettiamo domenica dalle 5 alle 7, io e Giovanni Capuano, per sigillare questo gemellaggio. Grazie a tutti, Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, dei buoni amici in redazione, ciao. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, ecco.